2024 2024 di Enrico Pagliarini. Questa è la puntata del 24 di dicembre, vigilia di Natale. Benvenuti o bentornati a 2024, il primo programma alla radio in Italia dedicato alla tecnologia. Io sono Enrico Pagliarini, ringrazio come sempre la nostra redazione e anche tutti i nostri ascoltatori che ci scrivono attraverso le pagine di Facebook. Potete cercarci e trovarci facilmente scrivendo 2024 all'interno di Facebook, oppure che ci scrivono durante la settimana al nostro indirizzo di posta elettronica 2024@radio24.it. Vi ricordo che anche questa puntata sarà disponibile attraverso il servizio podcast di Radio 24. Trovate tutte le informazioni online sul nostro sito internet www.radio24.it. Una delle notizie più curiose, più interessanti, effettivamente è interessante capire quello che hanno fatto alla Volkswagen, perché è stato raggiunto un accordo sindacale che riguarda gli oltre 1100 tra quadri e dirigenti che hanno un BlackBerry aziendale. Il servizio di posta elettronica sullo smartphone, pensate, verrà attivato solo 30 minuti prima dell'inizio dell'orario di lavoro e le email arriveranno solo fino a mezz'ora dopo, quindi mezz'ora prima e mezz'ora dopo. Il problema qual è? Con la diffusione dei BlackBerry, ma direi di tutti gli smartphone in azienda e soprattutto di tutti gli smartphone che inviano e ricevono posta elettronica, ormai lo fanno tutti, anche se il BlackBerry rimane lo strumento più utilizzato dalle aziende dove c'è un massiccio utilizzo di posta elettronica, anche perché secondo molte aziende la piattaforma BlackBerry è attualmente ancora la più solida, robusta, soprattutto per gestire in remoto decine, centinaia, migliaia di BlackBerry. Dicevo, con la diffusione di questi strumenti e soprattutto nelle aziende che hanno sedi in tutto il mondo o che lavorano con partner in tutto il mondo, e oramai sono tantissime le aziende che insomma hanno un'ottica globale, beh, le email arrivano a qualsiasi ora e visto che la curiosità è molto forte, un occhio alla email lo si butta sempre. Allora, per questo motivo l'orario di lavoro, con tutte le conseguenze del caso, si è esteso di molto e c'è chi dice, negli Stati Uniti se ne parla da tantissimo tempo, che il BlackBerry dia assuefazione. Infatti questo fenomeno e questo strumento negli Stati Uniti viene anche chiamato CrackBerry, dal crack, che è una droga, quindi che dà assuefazione. Allora, la Volkswagen che cosa hanno detto? I lavoratori hanno ottenuto per contratto questo risultato, cioè di essere esentati dalla email negli orari non di lavoro, quindi alla sera a cena, durante una serata magari con amici al cinema o a colazione, non si verrà disturbati dalla email, si vedranno solo gli SMS e naturalmente si potranno fare o ricevere telefonate. Beh, naturalmente inviare email lo si può fare, però diciamo che il servizio viene sospeso in ricezione, quindi immagino che ci saranno manager, dirigenti che la mattina, mezz'ora prima dell'orario di lavoro, vedranno recapitare decine, centinaia di messaggi di posta elettronica. A proposito di BlackBerry e della RIM, la società canadese che produce i BlackBerry, la società ha smentito seccamente questa settimana ipotesi di vendita. Negli ultimi giorni sono stati fatti parecchi nomi, soprattutto Amazon, si è parlato di un interesse per BlackBerry. Secondo la stampa americana anche Nokia e Microsoft sarebbero interessate alla RIM, ma alla Research in Motion hanno detto seccamente no, non se ne parla nemmeno. Sapete che ultimamente RIM ha visto abbassarsi soprattutto negli Stati Uniti le quote di mercato e nel frattempo si discute anche dei piani dell'azienda per passare alla nuova piattaforma per smartphone BlackBerry 10, nota fino a poco tempo fa come BBX. L'azienda ha comunicato che ritarderà e non arriverà prima di un anno perché devono aspettare la disponibilità di nuovi processori dual core e anche processori capaci di navigare e trasmettere sulla rete 4G. Ma questa è la versione ufficiale. Secondo una fonte molto affidabile, la società, la verità sarebbe che la nuova piattaforma di RIM sarebbe ancora in alto mare, soprattutto non ci sarebbe ancora il supporto alla email. incredibile, una piattaforma nata e che ha avuto successo grazie alla email, nella sua nuova versione non avrebbe questo supporto. Allora insomma un po' tutto è in alto mare, ma vedremo che cosa succederà. Ricorderete che la settimana scorsa abbiamo parlato di internet a bordo dei nuovi treni NTV, nuovo trasporto viaggiatori che, se tutto andrà secondo gli ultimi programmi, dovrebbero partire in marzo. Sistemi di questo tipo esistono già sui Frecciarossa di Trenitalia e su alcune altre tratte ferroviarie europee. Uno dei pochi luoghi dove non è possibile collegarsi ad internet e nemmeno fare telefonate sono ancora oggi gli aerei. Ma non è così in tutto il mondo, perché negli Stati Uniti molte compagnie e molte rotte offrono un servizio Wi-Fi in cabina. Alcuni servizi sono disponibili in altre parti del mondo, ma in nessun paese come gli Stati Uniti i servizi sono così estesi. Pensate che il fornitore che la maggior parte delle compagnie utilizza, che si chiama GoGo, attualmente è presente su 1177 aerei, quindi lì a bordo durante il volo si può navigare in internet. GoGo, questa società, questa settimana ha presentato richiesta di quotazione alla borsa di New York e punta a raccogliere 100 milioni di dollari. Per completezza, per i più appassionati, diciamo anche come funziona questo servizio. È molto semplice: a bordo dell'aereo c'è un hotspot Wi-Fi, mentre il collegamento tra l'aereo e internet, quindi la terra dove ci sono le reti internet, è realizzato tramite una rete terrestre. GoGo ha attualmente 100 torri di trasmissione che sparano il segnale in cielo, quindi tutto il cielo degli Stati Uniti è irradiato e quindi coperto. Altri sistemi utilizzano invece il satellite, come quello che esiste su alcuni voli intercontinentali della Lufthansa, che era stata una delle prime a lanciare questo servizio con il sistema Connection by Boeing. Poi questo servizio è stato chiuso, è fallita la società della Boeing, e ultimamente Lufthansa con un altro provider sta offrendo questo servizio sulle rotte intercontinentali. Quindi per questo motivo non si possono avere le antenne terrestri, perché sul mare ci sono migliaia di chilometri scoperti, ci sarebbero migliaia di chilometri scoperti, quindi bisogna affidarsi al satellite. Un servizio molto efficiente, ma sicuramente meno efficiente che una serie di antenne che dalla terra irradiano il cielo e quindi che poi si collegano a internet molto facilmente, un po' come avviene con la telefonia mobile, insomma. Però le antenne non sono rivolte verso terra, ma sono rivolte verso il cielo. Alcuni di voi ricorderanno che poche settimane fa la Corte di Giustizia europea ha stabilito che non è possibile imporre filtri ai provider, agli internet service provider che controllano il traffico internet, quindi sostanzialmente che i provider non devono essere coinvolti nelle attività di repressione del traffico di materiale protetto dal diritto d'autore. Pochi giorni fa c'è stata una sentenza in Italia che si rifà a quella della Corte di Giustizia europea. Ne parliamo con Alessandro Galimberti della redazione Norme e Tributi del Sole 24 Ore. Alessandro, benvenuto a 2024. Buongiorno a voi. Dunque, ricordiamo brevemente che cosa ha stabilito la Corte di Giustizia europea e poi parleremo della prima applicazione concreta in Italia. Allora, Corte di Giustizia, che cosa ha deciso? In sintesi, ha stabilito una volta per tutte che nelle legislazioni europee non può essere previsto un obbligo a carico degli internet service provider di fare gli sceriffi della rete, cioè di controllare che attraverso la rete vengano commessi degli illeciti, di segnalare degli illeciti e di provvedere a bloccare autonomamente le condotte illecite commesse attraverso l'uso della rete. Questo è molto importante perché, diciamo, nel dibattito internazionale, visto che non si trova il bandolo della matassa nella lotta contro la pirateria, spesso si diceva: beh, facciamolo fare ai provider, visto che loro hanno il controllo della rete, facciamo sì che i provider ci dicano, a noi case discografiche, a noi case cinematografiche, che cosa succede. Sostanzialmente sì, questo è il dibattito. Era una sorta di delega di polizia, in sostanza, a dei soggetti di diritto privato. Si usa spesso l'immagine dei casellanti, la usano proprio gli internet service provider per rappresentare la loro situazione di impotenza, nel senso, non è che il casellante è tenuto a perquisire ogni veicolo in transito per cercare traffico di droga o di armi. Il casellante fa pagare un pedaggio per i suoi servizi. Sì. In sostanza la Corte europea ha stabilito che questo deve essere il principio guida. Perfetto. In Italia, recentemente, pochi giorni fa, c'è stata la prima applicazione di questa sentenza. Sì, c'è stata la prima applicazione, la nona sezione civile del Tribunale di Roma ha proprio richiamato espressamente la sentenza della Corte Europea. Ricordiamo, è il caso di ricordare che riguardava una controversia, quella europea, tra la società del diritto d'autore belga, la Sabam, e un service provider che è la Scarlett. Qui tutti i principi di quella sentenza vengono recepiti in pieno ed è interessante perché riguarda tra l'altro un caso molto particolare ma molto diffuso, cioè la trasmissione, la ripetizione via streaming di partite che vengono trasmesse dalla TV tradizionale, dalla piattaforma digitale, in questo caso di Mediaset Premium. Che è chiaramente un illecito. Chiaramente è un illecito, nessuno lo mette in dubbio. Quello che è in dubbio in tutti questi processi è il ruolo di chi veicola inconsapevolmente, solo perché è fornitore di servizio, queste trasmissioni. La controversia era in sostanza tra Rete Televisiva Italiana, cioè Mediaset, e Google e altri due fornitori di servizi olandesi, peraltro non identificati. Riguardava la trasmissione sul sito calciolink.tk, che è abbastanza famoso, era abbastanza famoso presso i tifosi di calcio, delle partite soprattutto di Champions League e di Europa League, oltre ad alcuni campionati italiani. Quindi, la questione, diciamo, che se uno andava su questo sito internet, non so se la situazione attuale è cambiata o no. Adesso è inibito. Adesso è inibito. Però sostanzialmente uno andava su questo sito internet, lo solo dico per i non tifosi, non appassionati, e si poteva vedere le partite di Champions e altre partite in tempo reale. Ma questo accade anche in altri siti internet, in alternativa alle classiche piattaforme, quindi Sky, Mediaset. Tutto gratis. Tra l'altro sono tutte piattaforme queste a pagamento. Mediaset Premium trasmette le partite, però vanno acquistate, sì. O bisogna sottoscrivere abbonamento. Calciolink permetteva, era uno dei siti, non l'unico, che permetteva di guardare in diretta streaming sul computer le partite senza pagare pedaggio. Da questo punto uno si domanda che cosa dice il giudice in questa sentenza, ma ne parliamo fra un minuto. Adesso notizie che arrivano da strade e autostrade, ci sentiamo tra poco. Riprende 2024, ringraziamo Roberto Scaltritti che oggi si occupa della parte tecnica. Il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it. Anche questa puntata la troverete all'interno della piattaforma podcast di Radio 24. Tra poco abbiamo alcune notizie molto interessanti della settimana. Adesso stiamo parlando della prima applicazione in Italia di una sentenza molto importante che è stata emessa poco tempo fa dalla Corte Europea di Giustizia. L'applicazione in Italia riguarda un processo nel quale Mediaset aveva coinvolto anche i fornitori di accesso che davano quindi connettività, quindi permettevano di trasmettere su internet a un sito chiamato calciolink.tk Turkmenistan, quindi chi li va a prendere questi? L'accusa, ed è per questo che viene tirata in ballo questa sentenza europea, era che una parte della colpa ce l'aveva non solo chi ha inventato questo servizio che faceva vedere partite, ripeteva partite di calcio trasmesse sulle piattaforme Mediaset Premium, Sky, eccetera, eccetera, ma una parte della colpa ce l'aveva, secondo chi ha fatto la denuncia, anche il fornitore di accesso, quindi il fornitore di connettività. Ecco noi Alessandro Galimberti. Allora Alessandro, che cosa ha detto in questo caso il giudice, che cosa è interessante di questa sentenza? Il giudice dice la controversia riguardava Mediaset RT che portava a giudizio Google e altri due fornitori di servizi olandesi, GoDaddy. Mediaset chiedeva che Google pagasse per il solo fatto di essere il veicolo, insomma il provider attraverso cui passava questo segnale, che pagasse una penale e che soprattutto inibisse la prosecuzione dell'illecito. Tra l'altro poi nel provvedimento si scopre che Google, dopo le prime segnalazioni, aveva già effettivamente chiuso il canale Calciolink, cioè non poteva più essere raggiunto attraverso il sito blogger.com. Però ci sono anche degli spunti ulteriori in questa sentenza che non vengono applicati in questo caso perché erano superflui, ma secondo me la Corte sta spostando un po' in avanti il discorso sul ruolo degli internet service provider. Cioè? Perché dice oggi gli SP non sono più quelli che erano 10 anni fa quando è nata la direttiva sul commercio elettronico. Non sei più un casellante muto e cieco, dice in sostanza la Corte, il Tribunale di Roma, perché oggi chi fa servizi internet non si limita più a mettere a disposizione l'infrastruttura, ma fa anche l'indicizzazione di quello che viene, di passa attraverso, cioè dei e quindi fa dei collegamenti dei contenuti e ne fa sfruttamento economico attraverso la pubblicità. Questa analisi nella sentenza è buttata lì e non va oltre, perché in realtà l'illecito da parte di questo CalcioLink era stato già stroncato da Google, che aveva inibito il servizio, per cui il giudice si ferma alla domanda. La domanda era un'inibitoria, l'inibitoria era già raggiunta. Certo, però, però inserisce questo ragionamento che secondo me in futuro tornerà ad emergere quando in casi di questo tipo. Cioè, quindi, dice, l'interessato provider non è più un'infrastruttura cieca e muta, passiva ma sta cominciando a svolgere un'attività proprio di intermediazione intelligente, e quindi il passaggio successivo secondo me sarà dire, tu sei in grado di scoprire di quando viene commesso succede, un illecito, certo, non c'è più nemmeno bisogno che ti venga richiesto e segnalato, ma dovrai essere tu autonomamente a inibire delle condotte illecite. Ricordiamo in questo caso che il colpevole è sicuramente l'autore di CalcioLink, cioè quelli che si mettono a fare questi servizi. Sì, quando si ragiona sul ruolo dell'interest provider bisogna sempre considerare che nessuno mette in discussione l'illecito, che avvenga attraverso internet o attraverso altre forme, ma l'illecito c'è e su quello non c'è alcun dubbio. Bene, grazie ad Alessandro Galimberti per essere stato con noi, visto che siamo anche in periodo di feste. Auguri, buone feste. Auguri anche a voi. Molte domande che ci sono arrivate in queste ultime settimane a 2024 riguardano il mondo degli ebook. Siete particolarmente interessati a questo mondo, a questo settore. C'è chi scrive vario titolo, chi è interessato a comprarne uno, chi ci ha espresso il proprio parere su questo mercato, è ancora molto piccolo ma che cresce con numeri interessanti. Chi scrive libri o vorrebbe scrivere libri e vede gli ebook e le piattaforme di autopubblicazione come uno sbocco interessante. Tra l'altro, vedendo l'interesse che avete su questo settore, abbiamo deciso di fare presto una trasmissione sugli ebook, riproporre una trasmissione, un dibattito sul libro digitale. Parliamo però di una novità lanciata questa settimana dal gruppo 24 ore, si chiama Ebook Evolution ed è una iniziativa che mette assieme l'innovazione digitale in campo editoriale ai tradizionali canali di vendita dei libri cartacei. Per il momento sono disponibili 120 titoli tra i maggiori bestsellers su marketing, management, fisco, previdenza, leggi, materia del Sole 24 ore naturalmente. L'iniziativa è molto semplice: in libreria trovate, oltre alla copia cartacea, un coupon con un codice che vi permette di andare su internet e scaricare il libro in formato digitale, quindi in PDF o EPUB, che ricordiamo è il formato standard e PUB. Quindi il canale di acquisto è la libreria tradizionale, ce ne sono 120 in tutta Italia, unita al vantaggio dell'ebook digitale a partire dal prezzo, perché vi faccio due esempi giusto per capirci. Uno dei libri più famosi della collana del Sole 24 Ore, Come si legge il Sole 24 Ore, con tante informazioni utili, costa 39 euro in formato cartaceo e 24,90, quindi 25 euro in versione digitale. Marketing 3.0 costa 25 euro in formato carta e 18 euro in digitale. Adesso alcune notizie della settimana. Digital News. È stato rinnovato l'accordo fra Google e la Mozilla Foundation per posizionare come impostazione standard il motore di ricerca Google all'interno del browser Firefox. Secondo indiscrezioni, l'accordo vale $1 miliardo in 3 anni e permetterà a Mozilla di sviluppare senza problemi le prossime evoluzioni di Firefox. Ricordiamo che 25 browser, quindi programmi di navigazione su 100 nel mondo, sono Firefox, e quindi essere il motore di ricerca su milioni di PC è molto importante per portare traffico su Google, considerando che la maggioranza degli utenti non cambia i parametri di default. Naturalmente gli altri programmi di navigazione sono Chrome, che sta crescendo ed è arrivato ad una quota appunto vicina al 25% come quella di Firefox in tutto il mondo, poi Internet Explorer e Safari. Altra notizia: secondo l'osservatorio acquisti di Cartassì, nei primi 11 mesi dell'anno la spesa online degli italiani è cresciuta del 15,5%, raggiungendo quota 7,3 miliardi, che dovrebbero diventare 8,2 a fine anno. Le stime sono in linea con quelle diffuse circa un mese e mezzo fa dall'osservatorio e-commerce business to consumer di Netcom e della School of Management del Politecnico di Milano, che dava come 8 miliardi la soglia che l'e-commerce italiano avrebbe superato nel 2011. Il settore più rappresentativo, e anche qui si confermano dati che già erano conosciuti, è quello dei viaggi, che rappresenta online più del 40% degli acquisti. Telecom Italia ha lanciato un nuovo servizio chiamato Team Cloud, che permette ai clienti TIM di usufruire gratuitamente fino ad un gigabyte di memoria per archiviare foto, musica, video, insomma file in genere, sui sistemi della nuvola italiana di Telecom Italia, che è l'offerta di cloud computing di Telecom. È possibile accedere ai dati da più dispositivi e quindi non solo dallo smartphone. Secondo Kantar World Panel Comtech, una società di ricerche, le vendite dell'iPhone vanno a gonfie vele solo in Gran Bretagna e Stati Uniti. Nel mercato britannico la quota di mercato è del 31%, mentre negli Stati Uniti è del 36%. Nei principali mercati europei, quindi Francia, Germania, Italia e Spagna, la quota si sarebbe ridotta attorno al 20% in media in questi paesi. Cresce invece molto forte la diffusione di Android, che ha quote di mercato variabili in questi mercati fra il 46% e il 61%. Continuano le sperimentazioni per trasformare lo smartphone in un sistema di pagamento elettronico digitale, nel famoso borsellino elettronico. Questa settimana Intesa San Paolo ha presentato l'evoluzione di una piattaforma chiamata Move and Pay, muoviti e paga, oppure muoviti a pagare, per i pagamenti in mobilità. Sta partendo un progetto pilota su 550 clienti della catena Superflash, che è una linea di prodotti appunto di Intesa San Paolo. Questo test prevede il pagamento semplicemente appoggiando il telefono dotato di tecnologia NFC al POS, che è abilitato al circuito, in questo caso Mastercard PayPass. Per il test vengono utilizzati smartphone Samsung Wave con sistema operativo BADA 2.0 e tecnologia NFC integrata. Sono ancora pochi telefoni con questa tecnologia, che permette appunto di comunicare solo sfiorando il POS, quindi il lettore, e quindi di pagare naturalmente. All'interno dello smartphone è presente una SIM di Noverca, che è un operatore mobile virtuale del gruppo Intesa San Paolo, anch'essa abilitata all'NFC. Bene, adesso ci fermiamo per qualche minuto, ci sono le notizie di GR24, riprenderemo tra poco, parleremo di TV, di televisori, e quindi non di televisione, ma di televisori, perché faremo un po' il punto della situazione. Il prossimo anno, secondo molti esperti, potrebbe essere un buon anno per il mercato delle TV, quindi potremo anche rivedere alcune novità che non stiamo vedendo in questi ultimi tempi. Parleremo anche di servizi musicali, di streaming online, appena sbarcate in Italia due nuove società. Ci sentiamo tra poco a 2024. Riprendiamo questa puntata di 2024 nel giorno della vigilia di Natale 2011. Io sono Enrico Pagliarini, naturalmente gli auguri da parte della nostra redazione. Roberto Scaltritti oggi si occupa della parte tecnica, ringraziamo Anita Panizza in redazione. Il nostro indirizzo di posta elettronica, se volete comunicare con noi, magari in questi giorni in cui avete più tempo, non è detto che si abbia più tempo, però alcuni approfittano anche di queste settimane per fare un po' di vacanze, allora ci può essere chi ha un po' di tempo da dedicare anche ad internet, a riascoltare le nostre trasmissioni. Potete scriverci 2024@radio24.it, oppure potete andare sulla nostra pagina Facebook e partecipare alla discussione. Molto semplice, facebook.com/2024, scritto in parola, ma ci trovate facilmente, insomma, anche in altri modi. La settimana scorsa avevamo detto che il problema della diffusione di internet in Italia è forse più legato alla scarsa cultura digitale della nostra popolazione, cioè che oltre al nodo della diffusione della rete fisica, cioè la riduzione del digital divide, la costruzione di una nuova rete in fibra ottica, eccetera, eccetera, cose che diciamo molto, molto, molto spesso, oltre a questo c'è una mancanza di comprensione dei cittadini, delle aziende e della politica di quanti e quali vantaggi possono fornire le tecnologie a partire da internet. Cioè, molti non capiscono a che cosa mi serve internet. Allora, conferma di questa tesi, l'Istat ha pubblicato uno studio su italiani e tecnologia che mette insieme alcuni numeri. Il dato più interessante forse è quello di Eurostat, perché c'è il confronto con gli altri paesi, allora lì tutti i problemi che abbiamo in Italia spiccano. Pensate che solo 62 famiglie su 100 hanno accesso ad internet in Italia, contro una penetrazione della rete che raggiunge il 94% in Olanda, il paese numero uno in Europa. Ma uno potrebbe dire, vabbè, l'Olanda è piccola, quindi non può essere paragonata, eccetera. Allora, siamo all'85% in Gran Bretagna, l'83% in Germania, il 76% in Francia di penetrazione della rete internet. Naturalmente poi le cose cambiano se si guardano alcune regioni dell'Italia, alcune famiglie dove c'è una popolazione di giovani, quindi dove ci sono i giovani queste percentuali salgono molto più vicine al 90%, ma siamo lontani anche dalla media europea che è al 73%, e facciamo meglio solo di Portogallo, Cipro, Grecia, Romania e Bulgaria. E qualcuno potrebbe dire, beh, ci mancherebbe altro. Abbiamo un'altra notizia della settimana, interessante per capire come sta cambiando anche il mondo della TV, e tra poco parleremo di TV, ma soprattutto di televisori. Il Super Bowl del 5 febbraio prossimo verrà trasmesso via internet anche su smartphone per la prima volta nella storia, cioè verrà trasmesso per la prima volta nella storia su internet in generale, poi anche su smartphone. Si potranno vedere inquadrature esclusive e supplementari rispetto alla trasmissione televisiva tradizionale, rivedere le azioni principali on demand, quindi verranno messe in una parte dello schermo i cosiddetti highlights e io potrò cliccarci quando voglio, quindi per rivedere, che ne so, un'azione particolare. E poi ci sarà anche a disposizione una infinità di statistiche aggiornate in tempo reale. E visto che una parte dell'evento è rappresentato dalla pubblicità, perché molti spot vengono fatti ad hoc proprio per la finale del Super Bowl, e a volte questi spot sono veri e propri capolavori, si potranno vedere on demand, quindi fare replay anche degli spot. Se vi è piaciuta una pubblicità particolare, potete con questo servizio internet rivederla. La Federazione del Football Americano già da 4 anni trasmette le partite del sabato sera via internet con una media di 200-300.000 spettatori contro i 21 milioni della TV. Quindi qua si capisce che stiamo ancora parlando di due media nettamente diversi, ma che stanno crescendo. È proprio per questo motivo che la Federazione del Football Americano ha deciso di passare anche ad internet per la mitica finale del Super Bowl. Sarà quindi interessante vedere che cosa succederà, quali saranno i numeri di questo evento che, secondo stime, o comunque basandosi anche sull'evento dello scorso anno, ha fatto più di 110 milioni di spettatori. Naturalmente, lo sappiamo, il Super Bowl è uno degli eventi televisivi più visti al mondo, più seguiti al mondo. Da pochi giorni sono disponibili in Italia due nuovi servizi per ascoltare musica online, servizi cosiddetti di streaming musicale. Quindi non si acquista nulla, non si acquista il singolo brano, quindi non bisogna nemmeno scaricare il singolo brano, ma ci si abbona ad un servizio e si può ascoltare quante volte si vuole un numero illimitato di canzoni. Quindi si ha a disposizione un catalogo di 10 milioni, 13 milioni, 15 milioni di canzoni, e uno se le può ascoltare quando vuole. Si crea la propria lista di canzoni, la si ascolta quando vuole, ma soprattutto sul dispositivo che vogliamo, quindi smartphone, tablet, computer o anche altri strumenti. Ci sono delle radio wifi che si collegano ad internet, altri sistemi che si collegano alla rete internet che ci fanno ascoltare la musica. Insomma, la cosa importante è però che dobbiamo essere collegati ad internet. È un fenomeno di cui stiamo parlando già da un po' di tempo, che è un po' un'evoluzione del mondo della musica, che potremmo definire la musica in the cloud. Un altro dei vantaggi è che noi ci possiamo spostare, non dobbiamo portarci dietro il nostro catalogo, organizzare le nostre canzoni, è tutto online, e se ci spostiamo da una casa ad un'altra, da un posto ad un altro, e magari abbiamo il nostro smartphone, basta che ci colleghiamo e possiamo riascoltare la musica. Abbiamo chiesto di che cosa stiamo parlando e che tipo di servizi sono a Paolo Centofanti della redazione di dday.it. perché Paolo recentemente ha fatto alcune prove di questi servizi. Vi ricordo che gli ultimi che sono arrivati si chiamano rara.com e Deezer, scritto con due e deezer.com, due servizi appena arrivati in Italia. 100 fanti. Essenzialmente permette di ascoltare qualsiasi canzone o album di proprio interesse senza scaricarlo immediatamente, semplicemente sfogliando una libreria che dipende poi da servizio a servizio per quantità di canzoni disponibili. Semplicemente io semplicemente effettuo una ricerca di un artista che mi interessa, avrò la lista degli album, farò un click e potrò iniziare ad ascoltare immediatamente quello che voglio. Alcuni di questi servizi sono a pagamento, altri sono gratuito, hanno una parte gratuita, poi bisogna pagare, insomma ognuno ha il proprio modello. Sono servizi quindi che richiedono una connessione ad internet? Assolutamente sì, sono basati appunto sull'ascolto in streaming, quindi in tempo reale dal sito verso casa mia, che può essere il mio PC, smartphone o altro dispositivo, comunque tramite la connessione internet. Senti, qual è il vantaggio principale di un servizio di questo tipo? Abbiamo detto che bisogna essere collegati ad internet, viceversa se uno scarica le canzoni, quindi scarica 100 canzoni, quelle se le può ascoltare ovunque si trovi, sia sul computer, sia sul lettore di file MP3, il telefonino, eccetera, eccetera. Ecco, in questo caso che vantaggi vedi? Ma allora, i vantaggi sono essenzialmente due. La premessa è che al giorno d'oggi ormai la connessione internet, sia con lo sviluppo della DSL, adesso con i piani dati dei cellulari, è qualcosa di sempre acceso, always on, si dice. Per cui il fatto di preoccuparsi di essere in linea o meno è diventato secondario. Detto questo, il primo vantaggio è che non bisogna scaricare. Per cui io schiaccio play sul software o sul programma del telefonino e praticamente l'ascolto inizia immediatamente, al massimo proprio un secondo di attesa per un'operazione che si chiama buffering, che quando inizia il trasferimento del brano. L'altro vantaggio è che rende davvero semplice trovare quello che si cerca, mentre su internet utilizzando diciamo mezzi poco leciti a volte è una sfida riuscire a trovare quello che si cerca e con una buona qualità. Questi servizi offrono un catalogo molto ordinato, piacevole da sfogliare e che rende davvero molto semplice trovare quello che si cerca. Un terzo vantaggio, che è legato appunto alla facilità con cui è possibile sfogliare queste librerie, che ricordiamo includono qualcosa come 13-15 milioni di brani a seconda dei fornitori di servizio, che permettono anche di scoprire nuovi artisti legati a quello che si ascolta. Quindi se io ascolto, non so, Lady Gaga, è probabile che magari schiacciando su un tasto che solitamente si chiama artisti simili, mi possa trovare altre pop star di genere simile, quindi possano interessarmi. Adesso ci fermiamo per un minuto, questa è 2024, vi ricordo che potete scaricare questa puntata al termine della nostra trasmissione il sabato pomeriggio su Radio 24 nella versione podcast. È tutto molto semplice, andate sul nostro sito internet www.radio24.it, cliccate nella sezione podcast e lì troverete a disposizione il file MP3. Naturalmente se utilizzate tutto ciò con un sistema che gestisce il podcast, quindi iTunes oppure altri programmi che vi suggeriamo anche nella nostra pagina su internet, potete gestire il download in modo automatico settimana dopo settimana. A tra poco. Nella nostra ultima trasmissione dell'anno, quindi il prossimo sabato, il 31 dicembre 2011, faremo in modo molto veloce, molto leggero, una panoramica sulle novità che sono state presentate in questo 2011 dal punto di vista tecnologico, che cosa è cambiato, e vorremmo chiedervi che cosa ricordate e che cosa ritenete sia opportuno ricordare in questa carrellata delle novità 2011. Potete scriverci una email oppure andare nella nostra pagina Facebook, attiveremo la discussione nei prossimi giorni proprio su questo punto, quindi partecipate alla discussione. Stiamo parlando di musica online, di streaming, di nuovi servizi della musica in the cloud, nel cloud, quindi musica che non dobbiamo scaricare sul nostro computer, ma che con o software che dobbiamo installare una volta per tutte sullo smartphone o o sul computer oppure attraverso proprio il browser internet, possiamo crearci la nostra playlist. Sicuramente è anche una evoluzione verso una interazione maggiore, perché ci vengono suggeriti brani, perché possiamo partecipare ai social network. Ne stiamo parlando con Paolo Centofanti della redazione del magazine digitale D-Day.it. Assolutamente sì, è interattivo, primo per questi nuovi metodi per scoprire nuova musica e quindi magari anche artisti meno conosciuti che non passano in radio, per dire, che magari sono altrettanto interessanti. Inoltre quasi tutti ormai i servizi che sono partiti in questi mesi integrano anche un aspetto social, quindi l'integrazione con social network, che permette di condividere quello che noi ascoltiamo con i nostri amici, ma allo stesso tempo, seguendo i nostri amici sui social network, scoprire cosa stanno ascoltando loro e quindi anche in questo modo scoprire nuovi artisti, nuove canzoni e così via. Senti, la qualità della musica è buona, accettabile, com'è? Allora, solitamente la maggior parte dei servizi offre una diversa qualità audio a seconda se il servizio è gratuito oppure a pagamento. Quindi no, naturalmente parliamo di qualità non artistica, sì. Poi quella, ognuno, quella va a gusti. Sì, sì, la qualità proprio del suono. E tipicamente quando viene sottoscritto poi un abbonamento che si chiama Premium, viene anche migliorata la qualità d'ascolto. Tendenzialmente si parla di data rate tra i 128 kbit al secondo e fino a 320 kbit al secondo, con formati che variano dall'MP3 a un altro formato open che si chiama Ogg Vorbis, che viene utilizzato da alcuni di questi servizi. Comunque più che accettabile. Assolutamente sì, essenzialmente suona come un buon MP3, a volte meglio degli MP3 che si trovano su internet. Non è ancora la qualità lossless, quindi di livello CD, però comunque suona esattamente come un MP3 che si può scaricare da internet o l'audio che si può comprare su iTunes piuttosto che altri store. Sì, per le orecchie di molti è effettivamente un buon suono. Quanto costano questi servizi? Allora, se è imposto più o meno un prezzo standard, ovvero un'offerta gratuita che può prevedere un limite di ore d'ascolto piuttosto che un limite di brani oppure di un tempo massimo di offerta gratuita, per poi sbloccare l'ascolto illimitato con circa 5 euro al mese, questo solo su PC, e poi tipicamente con 10 euro al mese si può invece aggiungere l'ascolto offline, quindi la possibilità di ascoltare le proprie playlist preferite senza connessione a internet, più la possibilità di ascoltare su smartphone, quindi anche in mobilità e su rete 3G, e più ancora la possibilità di ascoltare invece su dispositivi da casa compatibili, essenzialmente dei lettori multimediali che possiamo attaccare allo stereo e quindi accedere a tutta la libreria online anche da casa attraverso il normale stereo fisso. Allora, va detto che a livello di prezzi ci sono, c'è appunto questo standard, oramai attorno ai 5 euro, prezzo d'entrata di 4,99 per molti servizi, ma appunto ci sono alcune differenze, vari servizi, vi invitiamo poi a provarli online, visto che quasi tutti offrono una settimana, due settimane di traffico gratuito, quindi uno si fa un'idea e prova. Però a livello di costo, sicuramente per i grandi utilizzatori di musica è più conveniente abbonarsi a questi servizi. Ad esempio, se ogni mese si comprano almeno 5 canzoni, che sono 60 all'anno, i 5 euro al mese di canone, che è lo standard, abbiamo detto, di molti servizi, sono convenienti. Poi naturalmente dipende anche da che consumo facciamo della musica, se ci piacciono i successi del momento e quindi siamo forti consumatori di brani usa e getta, questi servizi sono perfetti. Chiaro che se invece vogliamo avere la nostra canzone, tenerla per sempre, va detto che in questi casi, quando non si paga più il canone di abbonamento, questi servizi non offrono naturalmente più accesso alla nostra musica, anche quella che abbiamo selezionato nella nostra playlist. Però il bello è che si può fare la prova e testare quello che ci piace di più, oppure invece stabilire che ci piace di più scaricare musica, o addirittura ci sono quelli che ancora sono legati al CD e quindi che ci piace ancora di più il CD. C'è molta attesa nel mercato per l'arrivo di Spotify, che alcuni dicono avere una interfaccia utente e anche una library molto più vasta, ma nel frattempo insomma l'offerta in Italia è molto interessante e molto vasta. Paolo Centofanti ha fatto una serie di test, ha fatto una serie di prove, allora vorremmo capire se questi servizi sono fluidi anche in mobilità, perché un conto è collegarsi ad una cosa del genere quando siamo in casa col computer, con una DSL. Un conto invece è se siamo in giro, magari addirittura in mobilità, non a passeggio. Abbiamo provato alcuni servizi, tra l'altro non solo anche stando fermi in città, ma proprio anche muovendoci lungo l'autostrada, ad esempio collegando lo smartphone all'autoradio e quindi usando lo smartphone come se fosse un lettore MP3, si riesce a ottenere un ascolto perfetto, senza ritardi e senza interruzioni. Senti, stiamo vedendo negli ultimi tempi una, se non esplosione, molto fermento in questo settore. Stanno arrivando, come abbiamo detto, nuovi servizi anche in Italia, sono arrivati nuovi servizi anche in Italia. Molti si chiedono quando arriverà Spotify, che è un po' uno dei punti di riferimento nel settore. Mi chiedo, sono tutti uguali o ci sono molte differenze tra l'uno e l'altro? Non sono tutti uguali per diversi motivi. A parte Spotify, che è un po' appunto, come dicevi, il riferimento ormai del settore, anche perché proprio recentemente, non più di 2 settimane fa, hanno allargato la piattaforma anche ad applicazioni di terze parti che possono quindi realizzare nuovi programmi basati all'interno dell'applicazione Spotify e basati sulla collezione di brani disponibili. Per cui esempi molto semplici possono essere il Rolling Stone, che presenta le recensioni dei dischi nuovi con la possibilità di ascoltarli immediatamente e quindi farsi anche una propria idea. Oppure ancora applicazioni che permettono di ascoltare le canzoni con i testi sincronizzati, tipo effetto karaoke, tutto all'interno sempre dello stesso programma. Si differenziano per funzionalità di questo tipo, si differenziano per la facilità e il modo in cui è possibile creare playlist e condividerle con gli amici. La differenza più importante però rimane la libreria, perché i vari servizi possono stringere accordi differenti con le major e le etichette indipendenti e quindi poi alla fine avere un catalogo diverso non solo da servizio a servizio ma anche da paese a paese. In Italia sono disponibili alcuni di questi servizi, gli ultimi li abbiamo già citati, sono Rara.com e Deezer, appena arrivati. E poi ricordiamo Kubo Musica, che è collegato ai servizi di Telecom Italia, molto economico, soprattutto lo si può attivare attraverso la bolletta classica di Telecom Italia. E poi c'è Play Me di Dada, Curiosity di Sony, che è quindi collegata anche a tutti gli altri servizi di Sony online, lo Zoom Pass di Microsoft e anche Grooveshark, che è piuttosto famoso perché è gratuito e alcuni operatori del settore mi dicono finché esiste, perché ogni tanto pare che lo stiano per chiudere, perché è un sistema dove la musica viene uploadata dagli utenti, quindi a volte le case discografiche chiedono la rimozione di un brano ma mezz'ora dopo qualche utente poi lo ricarica di nuovo, e quindi insomma è una corsa contro il vento. Dunque adesso parliamo di TV, o meglio di televisori. Da un po' di tempo che non ce ne occupiamo perché non ci sono state francamente novità particolarmente interessanti negli ultimi mesi, anzi potremmo dire che di novità non ce ne sono proprio state. Ne parliamo facendo il punto della situazione, quindi spiegando anche alcune cose che possono essere utili a chi nei prossimi mesi vorrà o potrà permettersi di acquistare una nuova TV. Ed è molto probabile che nei prossimi mesi ci sia un buon numero di italiani che farà questo acquisto, perché il 2012 è l'anno delle Olimpiadi e storicamente questo è uno di quegli eventi che spinge le vendite di TV. Partiamo proprio da qui e chiediamo conferma a Gianfranco Giardina, che è il direttore del magazine digitale D-Day.it. Assolutamente sì, è ipotizzabile e attesa non soltanto per via delle Olimpiadi ma anche per via degli europei di calcio. Quindi come sempre tutti gli anni pari sono anni molto importanti per i TV, ogni 4 anni ci sono i mondiali di calcio e poi intervallati dall'anno in cui ci sono gli Olimpiadi e gli europei. Televisivamente parlando, questo è un anno molto particolare perché le Olimpiadi per la prima volta saranno riprese e trasmesse in 3D anche in Italia, e quindi questo ovviamente con la larga diffusione ormai di TV 3D rappresenta un miglioramento importante e soprattutto per gli amanti appunto dello sport, che potranno godere non soltanto dell'alta definizione ma anche del 3D. Ricordiamo che le ultime Olimpiadi praticamente si potevano vedere ma in maniera molto limitata in alta definizione, quindi possiamo dire che è la prima volta che si possono vedere in alta definizione tutto e buona parte degli eventi in 3D, quindi sicuramente televisivamente parlando, diciamo, vale doppio quest'anno. Senti, questa regola degli anni pari viene seguita anche dai produttori di TV o poco? No, viene seguita sicuramente per le scorte e per le promozioni, cioè tutti i retailer già adesso stanno pensando e stanno programmando quali saranno le promozioni, i lanci legati agli europei e alle Olimpiadi e ovviamente gli ordini di prodotto vanno di conseguenza, quindi ci saranno poi prodotti molto importanti. Adesso devo dire, visto che ci sono stati venti di crisi non indifferenti negli ultimi anni, anche le gamme pensate dai produttori vengono in qualche modo pensate in maniera più attenta sugli anni pari. Al Consumer Electronic Show di Las Vegas, che si tiene appunto a gennaio, si vedranno molte novità su fronte TV che magari non si erano viste lo scorso anno proprio perché è un anno pari. Gianfranco Giardina ha fatto riferimento al Consumer Electronic Show di Las Vegas e naturalmente ve lo ricordo, anche se tutti gli anni lo seguiamo con molta attenzione, faremo il punto della situazione proprio in quella settimana del 10 di gennaio, quando inizierà appunto il Consumer Electronic Show. Ci fermiamo per qualche minuto, riprendiamo tra poco. Questo è 2024, il programma di Radio 24 dedicato alla tecnologia. Ogni settimana cerchiamo di raccontarvi come la tecnologia ci cambia la vita. Io sono Enrico Pagliarini, il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it, oppure potete partecipare alla discussione nella nostra pagina Facebook. Stiamo parlando di televisori in questa ultima parte, faremo anche un po' il punto della situazione, lo stato dell'arte, qualche consiglio per gli acquisti per i prossimi mesi, con Gianfranco Giardina, che è responsabile del magazine digitale dday.it. Dunque Gianfranco, poco fa io ho detto che da un po' di tempo non parliamo di televisori perché francamente ci sono state poche novità o addirittura potrei dire nessuna novità negli ultimi mesi. È così? Non è così? Insomma, come stanno le cose? Negli ultimi mesi potremmo dire che non ci sono state grosse novità. Anzi, per molti produttori non ci sono stati lanci di nuovi prodotti né presentazioni di nuovi prodotti. L'esempio più classico è la Fiera di Berlino che si tiene a settembre, l'IFA, nel quale normalmente vengono presentati qualche modello nuovo. Ecco, molti produttori non hanno presentato modelli nuovi se non piccole modifiche, magari anche soltanto estetiche. Il fatto però che nel mondo dei TV negli ultimi mesi, sei mesi o anche fosse un anno, non sono uscite grosse novità, non è un fatto grave o rilevante, data la frequenza d'acquisto di TV. Cioè la frequenza d'acquisto di TV non è come quelle dei telefonini dove è richiesta, come dire, un modello nuovo all'anno o quantomeno ogni due anni, tanto ogni due anni tutti finiamo per cambiare il telefonino. In realtà i TV si cambiano con una frequenza minore, tanto che per assurdo le tante novità degli ultimi anni, perché se poi andiamo a guardarle negli ultimi 4-5 anni le novità tecnologiche sono state tantissime, rischiano di confondere il consumatore che si approccia all'acquisto di un TV. Chi ha comprato un TV, chi cerca oggi un TV per il salotto, probabilmente il suo l'ha comprato 5, 6 o forse anche 10 anni fa. Ecco, 10 anni fa i televisori erano completamente diversi, probabilmente a tubo catodico o forse i primissimi al plasma, sicuramente bassa definizione, più bassa anche del PAL, quando erano piatti per modo di dire, perché erano spessi 12-15 centimetri, quindi non erano certo i TV di oggi, non si parlava di alta definizione, non si parlava di 3D, non si parlava di possibilità di videoregistrare, non si parlava di tuner digitali e non si parlava di collegamento alla rete. Quindi sono tutti elementi nuovi che ci sono nei TV di oggi, quasi tutti, perché tutte queste caratteristiche che ho citato stanno arrivando quasi, non dico all'entry level, ma anche alla gamma mediana sicuramente, e che un acquirente dovrebbe imparare ad apprezzare tutto insieme. È uno sforzo non indifferente per chi non ha avuto uno stimolo spontaneo a tenersi aggiornato. Magari qualcuno ha visto qualche televisore piatto, nuovo e voluto da amici, ha avuto il modo di sperimentare magari da amici o parenti l'alta definizione, può avere qualche voglia in più, però è certo che trovarsi di fronte a 200 TV, che sono quelle che si trovano in un negozio mediamente fornito, 200 esemplari, e scegliere quello che fa per sé è una cosa molto complicata se non ci si è un po' preparati prima. Mi verrebbe da dire che stiamo assistendo ad un digital divide anche in questo caso, perché ci sono consumatori che hanno o acquistato la TV e quindi sanno di che cosa stiamo parlando, sanno che cos'è l'alta definizione. Molti altri consumatori invece sono ancora o addirittura al tubo catodico, comunque a TV dei primi anni, sia plasma che LCD. Abbiamo visto e l'abbiamo commentato anche a 2024 una forte concorrenza tra i produttori e quindi delle pressioni molto violente sui prezzi. Questo sta in qualche modo anche erodendo un po' la qualità dei prodotti, o stiamo vedendo mese dopo mese, anno dopo anno, un aumento netto della qualità? La qualità nei TV è aumentata moltissimo in questi anni, la qualità d'immagine possibile e anche parallelamente alla qualità dei segnali, il passaggio alla TV digitale e poi all'alta definizione, quindi l'immagine è molto migliorata. Sicuramente, soprattutto in Italia, c'è una spinta promozionale molto forte, quindi si vendono i prezzi prima ancora dei prodotti. Questo è un errore incredibile. È chiaro che tutto va confrontato con un prezzo, però è sempre quello che gli americani chiamano value for money, cioè il valore che io porto a casa che deve essere perequato al prezzo che pago. Se io pago un prezzo anche bassissimo, ma la qualità vale ancora meno, è un peccato. Oppure è un prodotto semplicemente meno longevo che sarà superato fra 2 anni invece che fra 5 o fra 8, non è detto che abbia fatto un grande affare. Il problema qual è? Che in un sistema come quello italiano, dove l'acquirente mediamente non è preparato dal punto di vista tecnico, non diciamo dei tecnicismi, ma proprio quelle 5-6 questioni di base per capire che il LED non è una tecnologia diversa o drammaticamente diversa dall'LCD, per esempio, mentre tutti pensano che sia una cosa completamente diversa. Ecco, già se ci fosse un utente un pochino più preparato, la valutazione di che cosa sto portando a casa sarebbe più attenta e la pressione promozionale non avrebbe così gioco facile. In un sistema in cui tutti i TV, occhio e croce, se l'immagine si vede, per l'acquirente sono molto simili, perché non riesce a coglierne le differenze nelle tecnologie che sono intrinsecamente contenute in essi, allora a quel punto vince il prezzo. Problema qual è? Che nei negozi molte di quelle nuove tecnologie di cui stiamo parlando non sono dimostrate o in alcuni casi non sono dimostrabili. Faccio 2 esempi. Le smart TV, cioè le TV collegate alla presa di rete, che possono succhiare e quindi visualizzare contenuti sia dalla rete locale, quindi dai computer o dai NAS che ci sono in rete locale, sia da internet. Sono una cosa bellissima, facilissima, comodissima. Il problema è che nei negozi molto difficilmente si troveranno i TV in esposizione collegati a internet. Quindi o uno sa già che cosa fa uno smart TV, e quindi che cosa può fare, cosa può ottenere, cosa può fare nella propria rete, quindi arriva già ed è già alfabetizzato, oppure non potrà capire il negozio il valore di quell'innovazione, e se non capisce il valore di quell'innovazione non sarà disposto a pagare neanche un euro per quella. La stessa cosa si può dire, non so, per il 3D. Se io non posso vedere in negozio il 3D, visualizzarlo sul TV che voglio comprare, non su un TV campione che poi torno a casa e il 3D magari è diverso, dovrei poterlo vedere su tutti i TV e questo non accade. Ma il più delle volte anche nei negozi è difficile poter toccare il telecomando del TV, poter vedere il menu, se è bello o brutto, se il cambio canale è veloce o è lento. Ecco, sono tutte cose che fanno la differenza, e io sono convinto che se io chiedo a un cliente qualsiasi, se tu vuoi questo TV che costa 50 euro meno ma cambia i canali lentamente, oppure questo TV che costa 50 euro di più ma i canali, lo zapping lo fai più veloce, quale scegli? Mi dai questi 50 euro in più per il TV più bello? Ma sicuramente sì, ma deve poterlo vedere, deve poterlo sapere. Questo in negozio non accade, e quindi purtroppo spesso succede che quel valore che nel prodotto c'è e che sarebbe anche acquistabile, sarebbe da PIL per il cliente, non viene trasferito al cliente e quindi il cliente sceglie il primo prezzo, sceglie il volantino. Non fa un affare il cliente quando porta a casa un TV che non è adatto alle sue esigenze, non fa un affare il retailer perché spesso su quei prezzi vende sotto costo o quasi, e quindi alla fine è un mercato più povero. Non sono in grado però di trovare delle altre soluzioni, cioè è chiaro che poi il retailer deve avere penalizzazione, deve avere clienti e fa queste promozioni, soprattutto sui TV che sono stati per molto tempo una merceologia di maggiore appeal, oggi forse è il turno degli smartphone, e quindi diciamo c'è molta pressione sul primo prezzo. Sì, tu hai ragione, oggi è il turno degli smartphone, però noi non possiamo parlare di smartphone tutte le settimane effettivamente. Parleremo presto di TV in modo più approfondito, anche rispondendo agli ascoltatori, però a questo punto uno potrebbe dire: ma ci hai accusato di non capirci niente, quindi di non sapere che cosa scegliere quando andiamo in negozio, ed effettivamente capisco che l'ignoranza fa dei danni mostruosi, perché se uno si compra un TV e ad esempio, come tu dicevi, non valuta che per cambiare un canale ci impiega molto, poi sul molto si può discutere, ma questo è drammatico, perché la TV la utilizziamo, non tutti, io meno della media, però molti la utilizzano tutti i giorni, quindi pensate lo stress, e soprattutto lo zapping è un'attività insomma piuttosto frequente. Allora, a questo punto possiamo dare qualche consiglio a chi nei prossimi mesi, prossime settimane vorrà avvicinarsi all'acquisto di una TV? Allora, prima di tutto mi verrebbe da dire: metteteci del tempo prima di scegliere. Ma documentatevi un pochino prima. A casa c'è internet, grazie a Dio, c'è la radio, c'è 2024, e quindi sicuramente bisogna documentarsi un minimo, perché veramente l'offerta è molto ampia e quindi orientarsi poi non è facile. Parliamo almeno delle cose più importanti. La dimensione schermo. La dimensione schermo è una cosa importante, perché la TV sta diventando sempre più grafica e col passaggio all'alta definizione i caratteri che vengono usati dai broadcaster sono sempre più piccoli, perché giustamente hanno più risoluzione e usano dei caratteri anche più piccoli. È una TV che non solo da guardare, ma in alcuni casi anche da leggere. Quindi avere una dimensione schermo troppo piccola non fa bene agli occhi. Qualcuno dice: non voglio il TV troppo grande perché poi mi fa male agli occhi. Non è vero. Anzi, tutto deve essere ovviamente perequato alla distanza di visione, ma una TV che è larga, diciamo il 50% della distanza di visione come larghezza, o meglio che la distanza di visione sia il doppio della larghezza dello schermo, è una dimensione che già incomincia a essere più che accettabile. Questo quindi vuol dire, quindi, se capisco, cioè se io sono a 3 metri, una TV da 1,5 metri di larghezza è la dimensione importante sicuramente, ma assolutamente fattibile. Questo non vuol dire che se uno ha il divano a 5 metri deve avere un televisore largo 2,5 metri a tutti i costi. Si può anche chiaramente andare sotto questa specifica, ma non c'è nessuna controindicazione ad avere dei TV più grandi. Poi più delle volte guida la dimensione del mobile, del supporto, della parete dove devo metterla, e allora lì ci sono altri vincoli. Però su questo non aver paura di andare oltre il 32 pollici, se anche sia prima si aveva magari un 29 pollici 4/3, un 42 pollici va bene per la totalità dei salotti, un 50 pollici è consigliabile, ma in alcune situazioni anche di più senza nessun problema. E questo è il primo concetto. E anche le barriere di prezzo da questo punto di vista si sono molto abbattute, perché i prezzi anche sui grandi pollicciaggi sono scesi molto. Il concetto di alta definizione, importantissimo. Oramai tutti i TV, mi sento di poter dire tutti quelli che hanno un marchio conosciuto davanti, sono full HD quantomeno sui pollicciaggi, diciamo dai 32 pollici in su. È una risoluzione di 1920x1080 pixel, è assolutamente fondamentale che sia così, perché la TV sarà quasi esclusivamente così, intendo dire proprio le trasmissioni saranno quasi esclusivamente così, se non esclusivamente così, in pochissimo tempo. Già Sky c'ha decine di canali in alta definizione. I broadcaster nazionali gratuiti, diciamo, quindi Rai, Mediaset, La7, già trasmettono in maniera, diciamo, sperimentale, ma neanche troppo in alcuni casi in alta definizione. Fra poco, col primo semestre del 2012, sarà completato il switch off in digitale, si libereranno in maniera strutturale delle frequenze, incomincerà anche sul digitale terrestre ad arrivare molte trasmissioni in digitale, già ci sono, scusate, in alta definizione, già ci sono quelle a pagamento in alta definizione, sia per quanto riguarda il cinema che per quanto riguarda il calcio, quindi sicuramente quello è un fattore molto importante da tenere in considerazione, anche e soprattutto per le sorgenti. Perché lo dico? Perché il TV, appunto, abbiamo detto, sono tutti Full HD, però bisogna incominciare a pensare che se ho un TV Full HD è meglio se guardo un Blu-ray e non un DVD, è meglio se guardo, per esempio, con Sky HD e non col vecchio ricevitore di Sky, magari che non ho ancora cambiato perché prima non avevo un TV in alta definizione. Bisogna adeguare la catena, ma ne vale la pena perché la differenza è nettamente migliore. Tecnologie, tutti chiedono, meglio plasma o LCD o addirittura OLED? Poi ho sentito parlare dell'OLED, che non va confuso con LED, è un'altra domanda classica, che cos'è, arriva o non arriva? Allora, cerchiamo di fare velocemente un po' di chiarezza. Lo facciamo però fra un minuto. Stiamo parlando di televisori con Gianfranco Giardina, responsabile del magazine digitale dday.it e sicuramente uno dei massimi esperti in Italia del settore, e siamo arrivati al punto che per alcuni è fondamentale: plasma ed LCD oppure plasma o LCD. Gianfranco Giardina. Le due tecnologie fondamentali disponibili in questo momento sono plasma ed LCD. Il plasma è, diciamo, forse quello che dà una visione più tradizionale, nel senso buono del termine, cioè quindi con un look più classico, meno digitale se vogliamo, però ha il limite che praticamente parte da 42 pollici in su, non esistono pollicciaggi più piccoli. Per il TV del salotto può essere una scelta molto interessante, anche in considerazione dei prezzi che sono molto aggressivi del plasma. Prestazioni buone, prezzi buoni, peso un pochino più elevato di quello dell'LCD, ma normalmente il TV del salotto non si sposta, quindi per il TV del salotto può essere una buona scelta. LCD invece funziona con una logica completamente diversa, quindi con una retroilluminazione, può essere di tipo tradizionale oppure LED. Quando parliamo di LED parliamo semplicemente che la retroilluminazione del pannello LCD è fatta, realizzata con dei LED, che sappiamo essere fonti luminose ormai molto, molto diffuse. Il vantaggio dei TV LED rispetto agli LCD tradizionali sono che possono essere più sottili e consumano tendenzialmente un po' meno, perché il LED consuma meno. In più, se vogliamo vederlo traguardando nel senso della durata, ma durata proprio negli anni, quasi direi nei decenni, il LED si usura molto meno di quanto non facciano le classiche lampade a fluorescenza dietro gli LCD. Quindi dovrebbero durare anche di più, anche se stiamo parlando di durate di 10-15 anni. Probabilmente il TV viene cambiato prima che si usurino i LED. La differenza poi tutto sommato è lì. Il LED consente, proprio per come è fatto, di fare la cosiddetta illuminazione LED edge, quindi di mettere le lampade sul lato, sui lati dello schermo, e avere degli schermi spessi anche poco più di un centimetro. Quindi un TV veramente piatto, più piatto di quello che si riesce a fare col plasma, anche se il plasma ormai è arrivato anche lui a 3 centimetri. Sì, anche se poi, voglio dire, stiamo esagerando, quindi oramai da un centimetro a 0,8 cambia poco. Sì, è vero, cambia poco, è importante per chi vuole attaccare il TV alla parete. Allora, se l'intenzione è quella di attaccare il TV al muro, avere uno spessore contenuto è bello, perché il TV resta proprio radente al muro, eccetera eccetera. Se invece il TV va messo a piedistallo, lo spessore del TV è praticamente ininfluente, perché in realtà il TV sarà staccato dalla parete a causa del piedistallo, che avrà comunque un dente nella parte posteriore, perché sennò rischierebbe di ribaltarsi. Quindi il TV resta comunque a 20 cm, 15 cm dalla parete, sì, anche se è spesso un centimetro. Sì. Avvisiamo i nostri ascoltatori che quando entriamo in un negozio ci impressiona di più l'LCD e a volte ci facciamo ingannare dall'immagine così appariscente. Allora, l'LCD, avendo una retroilluminazione, può avere questa retroilluminazione pompata a piacere, quindi è sicuramente più luminoso. Quando io vedo tanti schermi uno di fianco all'altro, tendo a scegliere naturalmente quello più luminoso. E quindi il plasma vicino a molti LCD fanno può fare una cattiva impressione, ma in realtà quando lo si vede poi da solo, e TV, il suo uso normale è vederlo uno per volta, non i 200 che ho in negozio, assolutamente non si percepisce questa differenza di luminosità. Non solo, in alcuni ambienti la luminosità, soprattutto nelle ore serali, una luminosità eccessiva dà fastidio, tant'è vero che si aggiungono delle luci magari aggiuntive sopra il TV, di fianco al TV, per avere un minimo di illuminazione nella stanza per non stancare la vista. Attenzione, tutti i TV che si vedono in negozio sono, lo voglio dire forte, sono taroccati. Questa cosa vuol dire? Vuol dire che sono impostati in una modalità che si chiama store, che funziona soltanto per il negozio, che si attiva con una sequenza tasti che viene attivata all'inizio e praticamente spara i colori al massima potenza, aumenta la luminosità in maniera incredibile, perché il TV sembri più bello quando viene accostato di fianco agli altri. Il TV che poi invece un cliente porta a casa è nella modalità home e quindi va in maniera in alcuni casi radicalmente diversa, per fortuna di chi l'ha comperato, perché se andassimo in modalità store vi assicuro che si vedrebbe assolutamente male. Quindi a questo punto veniamo, diciamo, entriamo in un negozio per orientarci, fanno di tutto per disorientarci. In certi versi sì, però d'altronde chi è che ha voglia di fare la vittima sacrificale e lasciare un TV in modalità home quando quelle modalità store si vendono meglio? Quindi alla fine tutti i produttori prevedono questa modalità e basta che incominci uno e vanno dietro, quindi necessariamente devono andare dietro tutti. Quindi il consiglio è non correre dietro al modello che è più luminoso o più colorato, tanto per intenderci. Quindi quando l'occhio spontaneamente cade lì, chiedersi subito: sto guardando quello solo perché è più luminoso di quell'altro oppure no? E quindi astrarsi dal contesto, cercare di guardare un TV per volta. Il confronto AB, cosiddetto, tra due TV è sempre ingannevole, perché quando io guardo due TV uno di fianco all'altro, cerco di capire qual è l'immagine migliore, più delle volte sbaglio, perché sono inevitabilmente sedotto dai colori forti e dalla luminosità. Quindi non lasciarsi ingannare dalla luminosità. Scegliere una TV, stiamo capendo che è sempre più difficile. Ci sono altre cose da tenere in considerazione. Una, forse tra le più importanti, è la cosiddetta logica che sta dietro alla cosiddetta smart TV. Ormai tutte le TV si collegano alla rete, rete internet, alla rete locale, e quindi prendono contenuti da diverse fonti. Da questo punto di vista, che cosa dobbiamo stare attenti? Beh, che ogni sistema di smart TV è diverso da un altro, cioè non c'è uno standard, ogni produttore propone la sua versione con le sue applicazioni. E quindi, mentre fino a prima delle smart TV, comprare un TV di un marchio piuttosto che un altro non cambiava radicalmente i contenuti che vedevo, magari cambiava la qualità, ma Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Rete 4, insomma, con qualsiasi TV quelli si vedono. Nel mondo della smart TV, con un TV Samsung vedo delle cose via rete, con un TV Sony ne vedo delle altre. No, specifichiamo che Rai 1, Rai 2, Canale 5, eccetera, si continuano a vedere. Si continuano a vedere, no, certo, ci mancherebbe. Ma in più, quello che io vedo via rete non è standard. Ogni produttore propone la sua aggregazione di contenuti. Quindi è bene prima farsi un giro sui siti. Su Didei abbiamo uno speciale fatto tempo fa che spiega tutte le filosofie delle diverse smart TV, ma anche basta andare sui siti dei produttori per capire cos'è offerto e quindi scegliere produttore per produttore quale produttore offre, non so, il collegamento a YouTube piuttosto che il collegamento a Cubo Vision, piuttosto che il collegamento a tutti gli altri vari servizi che possono essere utili, che magari uso. Quindi in questo modo capire, perché quando sposo quel produttore, a quel punto non posso più avere il servizio offerto da un altro produttore. Ecco, quindi qui ci sono delle differenze che vanno marchio per marchio, bisogna stare molto attenti. Un'altra cosa è sempre ricordarsi che non basta che ci sia la presa di rete perché un TV sia smart. Il più delle volte, cioè non il più delle volte, in alcuni casi, se c'è la presa di rete, il TV è in grado solo di collegarsi alla rete locale e prendere dei contenuti da un PC o da uno storage che abbiamo sulla nostra rete locale di casa e visualizzare quei contenuti più altre piccole cose da internet, ma non la vera logica Smart TV. In altri casi invece la Smart TV completa permette per esempio anche di fare con una telecamerina videoconferenza in Skype, che è molto interessante perché sì, col PC si fanno le videoconferenze in Skype, però stare in 5 o 6 a fare una videoconferenza dietro a un PC portatile è molto complicato. Col TV si può vedere tutti i 5 o 6, essere ripresi con la telecamerina tutti i 5 o 6. Un'altra funzione importante che vorrei sottolineare è la funzione cosiddetta PVR, Personal Video Recorder. Questo, la videoregistrazione. La videoregistrazione, sì, perché è un problema di un numero sempre maggiore di utenti, quello di videoregistrare nell'era digitale. Sono cambiate un po' tutto, è cambiato anche le regole, i videoregistratori VHS sono fuori uso, tutti, quelli che non si sono ancora rotti come meccanica, ma comunque sono analogici, quindi hanno bisogno di un decoder, ma comunque si rompono e in negozio comunque non si trovano più, quindi anche chi volesse rimanere sul VHS con un decoder esterno non ci riuscirà più. La logica è quella di avere tutti i device che registrano, TV compresi. Una grossa fetta di TV ha la cosiddetta funzione PVR, questa sigla, che sta appunto per Personal Video Recorder, significa che quel TV è in grado di registrare le trasmissioni in digitale, quindi registra proprio lo stream digitale, quindi rivederle è con la qualità identica che della prima messa in onda, allo stesso modo, e registra su chiavette USB, che non sono in dotazione, ma basta una chiavetta USB qualsiasi inserita nella porta USB del TV, o registra su hard disk portatili esterni, sempre collegati alla presa USB. Questo con qualche limite. Il limite fondamentale è che il TV, se non ha un doppio tuner, registra soltanto il canale che si sta visualizzando, quindi serve tantissimo quando siamo fuori casa o non possiamo in quel momento vedere la trasmissione, ma non possiamo registrare un canale e vederne un altro, questo nella stragrande maggioranza dei casi. E il secondo limite è che non si può portare quella registrazione su un altro TV. Questo qui è una regola che vale per tutti i TV, sono codificate le registrazioni, possono essere riviste solo attraverso il medesimo TV. Però è una funzione che è già compresa e integrata in moltissimi TV, che in molti casi praticamente neanche costa, è semplicemente una scelta di andare su un modello piuttosto che su un altro, e quindi il consiglio è quello sempre di scegliere un TV che abbia la funzionalità PVR. E magari la doppia, il doppio sintonizzatore. Il doppio sintonizzatore sarebbe una cosa bella, non è sempre disponibile, in alcuni casi però per esempio per chi ha anche il satellite è disponibile, sono disponibili dei TV che hanno il tuner terrestre e il tuner satellitare all'interno, e quindi per esempio posso registrare qualcosa dal canale terrestre e nel frattempo vedere qualcosa sul satellite, ecco, questo è più diffuso rispetto al doppio tuner terrestre. In alternativa, anche se è un po' scomodo, uno può sempre decidere di comprare un decoder esterno, questo con funzione PVR, c'è anche nei decoder, da destinare solo alla videoregistrazione e intanto vedere col proprio TV, anche senza funzione PVR a questo punto, col proprio TV vedere il canale che vuol vedere live. Era Gianfranco Giardina, responsabile, direttore del magazine digitale dday.it, dove naturalmente trovate molte informazioni anche sul mondo dei televisori. Torneremo presto a parlare anche con le domande e le risposte agli ascoltatori. Questo è 2024, io sono Enrico Pagliarini, grazie come sempre per la vostra attenzione, gli auguri di buon Natale da parte di tutti noi e appuntamento alla prossima settimana. 2024.